In quel tempo non c'era re in Israele e la tribù di Dan stava cercandosi un territorio in cui abitare, perché fino a quel giorno non le era toccato un territorio in mezzo alle tribù di Israele. I Daniti mandarono da Zorea e da Estaol 5 uomini prodi della loro gente che abitavano nella loro terra a percorrere ed esplorare la regione. Dettero loro quest'ordine: andate ad esplorare la regione. Essi giunsero alla montagna di Efraim fino alla casa di Mica, dove pernottarono. Poiché essi si trovavano vicino alla casa di Mica, riconobbero la voce del giovane Levita. Si fermarono allora alla casa e gli domandarono: chi ti ha condotto qua? Che fai qui? E che interessi ci hai? Quegli narrò loro tutto ciò che gli aveva fatto Mica, come Mica lo avesse preso al suo servizio e come ora egli facesse a Mica da sacerdote. Essi gli chiesero allora che interrogasse Dio per sapere se la loro missione avrebbe avuto buon esito. Rispose loro il sacerdote: andate tranquilli, che il Signore è favorevole alla vostra missione. Proseguendo il loro viaggio, i 5 uomini giunsero a Lais, dove trovarono un popolo che viveva in pace sicura, secondo il costume dei Sidoni, che sono pacifici e si sentono sicuri. In quella terra non mancava nulla, anzi, era molto ricca. Inoltre, Lais era lontana da Sidone e i suoi abitanti non avevano relazione con Aram. Gli esploratori tornarono a Zorea e ad Estaol, alla loro gente, che si informò come fosse andata la spedizione. Risposero: muovetevi, che assaliremo quella gente. Noi siamo andati e abbiamo percorso la regione fino a Lais, e abbiamo trovato un popolo che viveva in pace sicura, secondo il costume dei Sidoni. Sono molto lontani da Sidone e non hanno relazione con Aram. Muovetevi, che assaliremo quella gente. Abbiamo visto che si tratta di una terra molto buona e voi ve ne state inerti. Basta con questa infingardaggine che non vi fa muovere per andare a conquistare la regione. Quando arriverete, troverete un popolo pacifico e una regione vasta. Dio la darà, ne siamo sicuri, nelle vostre mani. È un luogo in cui non manca nulla di quanto ci può essere sulla terra. Così una parte della tribù di Dan si mosse di lì, da Zorea e da Estaol, 600 uomini con le armi alla cintura. Essi mossero verso nord e si accamparono a Kiriat Jearim, nel territorio di Giuda. Perciò quel luogo fu chiamato Campo di Dan, nome che mantiene anche oggi, e si trova ad ovest di Kiriat Jearim. Di lì raggiunsero la montagna di Efraim e si fermarono alla casa di Mica. Qui quei 5 uomini che erano stati ad esplorare la regione si rivolsero ai loro fratelli dicendo: lo sapete che in quelle case ci sono Efod e Terafim e una statua di metallo? Ora sapete quel che dovete fare. Si fermarono alla casa dove abitava il giovane Levita, la casa di Mica. Entrati, salutarono il Levita, mentre i 600 uomini con le armi alla cintura si ponevano davanti alla porta. Intanto, i 5 uomini che erano stati ad esplorare la regione, dopo essere entrati, presero la statua di metallo, l'Efod e i Terafim. Il sacerdote si pose allora davanti alla porta e vi trovò i 600 uomini con le armi alla cintura. Anche questi, entrati nella casa di Mica, si dettero a portar via la statua, l'Efod e i Terafim. Il sacerdote disse loro: che state facendo? Ma quelli gli risposero: sta zitto, mettiti una mano sulla bocca e vieni con noi, che sarai per noi come un padre e un sacerdote. È meglio per te essere il sacerdote di un uomo solo o essere il sacerdote di un'intera tribù d'Israele? Il sacerdote si sentì lusingato, prese perciò l'Efod, i Terafim e la statua e si unì a quella gente. Essi si rimisero in cammino verso la loro meta, ponendo in testa alla colonna le donne, i bambini, il bestiame e il bagaglio. Si erano già allontanati dalla casa di Mica quando gli uomini che abitavano nelle case vicine a quelle di Mica si riunirono in armi per inseguire quelli di Dan. Li chiamarono ad alta voce e li fecero volgere, ma quelli dissero a Mica: «Che ti prende a gridare così?» Egli rispose: «Mi avete portato via il dio che mi ero fatto e il sacerdote, e che cosa mi vorreste portar via ancora? E vi domandate anche perché me la prendo?» Ma quelli di Dan gli risposero: «Non ci far più sentire la tua voce, che uomini esacerbati non abbiano a piombare addosso a te e ai tuoi, così perderesti anche la vita, tu e i tuoi». I Daniti ripresero la loro via, e Mica, che si era reso conto come quelli fossero più forti di lui, tornò a casa sua. I Daniti si presero dunque ciò che Mica si era fatto e il suo sacerdote. Giunti a Lais, trovarono quel popolo pacifico e che si sentiva sicuro. Lo passarono a fil di spada e dettero alle fiamme la città. Non c'era nessuno che portasse loro soccorso, perché Lais era lontana da Sidone e i suoi abitanti non avevano relazioni con Aram. Lais era situata nella valle che conduce a Bet Rekob. I Daniti, ricostruita la città, vi abitarono, chiamandola Dan, dal nome Dan del loro progenitore, uno dei figli di Israele. Prima la città si chiamava Lais. I Daniti si eressero qui l'idolo, e Jonata, figlio di Gersom, figlio di Mosè, e quindi i suoi discendenti, furono sacerdoti della tribù di Dan fino al giorno della deportazione dalla terra. Essi si eressero l'idolo che si era fatto Mica, che rimase in quel luogo per tutto il tempo in cui la casa di Dio fu in Silo.